GR24, il sole 24 ore. Poliziotto ferito gravemente da un autonomo. E nella capitale disagi anche per la piena del Tevere e dell'Aniene, allagati sottopassi e circoli sportivi, si contano intanto i danni nel Grossetano. Tweet di Vivian Reding è fatta, la Commissione europea dice sì alle quote rosa nei consigli di amministrazione. Sempre meno bimbi, sempre meno italiani, 15.000 in meno nel 2011 rispetto all'anno prima, crescono solo i figli degli stranieri. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Due piazze sono di scena oggi in molte città italiane nell'ambito della mobilitazione europea contro le politiche di austerity. La piazza degli studenti e la piazza dei lavoratori della CGIL. Cortei stanno sfilando in 87 città all'insegna della difesa della scuola pubblica e dei posti di lavoro. Scontri e tafferugli si registrano in molti casi. 5 gli agenti feriti in centro a Milano, 3 ragazzi fermati a Brescia, ma l'episodio più grave si registra a Torino, dove un poliziotto è stato gravemente ferito dagli autonomi davanti alla sede della provincia di Corso Inghilterra. È stato accerchiato da una ventina di giovani armati di bastoni e mazze da baseball che lo hanno colpito alla testa. Ma proseguiamo il nostro giro, naturalmente vi terremo aggiornati anche su quanto successo a Torino, ma proseguiamo ora il nostro giro delle piazze. Dopo aver sentito alle 12 Milano e Torino, ci colleghiamo invece con Roma e con Piazza Farnese, dove è arrivato il corteo della CGIL. In diretta con noi Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Per il lavoro e la solidarietà e contro l'austerità, questo è il grande striscione rosso che domina Piazza Farnese, dove si sta concludendo la manifestazione della CGIL, sindacato che oggi ha proclamato 4 ore di sciopero per tutte le categorie tranne quelle del pubblico impiego, che si fermano per l'intera giornata. Sono presenti in piazza lavoratori dei trasporti, della sanità, della scuola, nonché pensionati e disoccupati, tanti in particolare docenti che protestano contro i tagli, contro il concorsone e contro il tentativo poi rientrato di portare da 18 a 24 le ore di insegnamento. Ma a Roma oggi sono almeno 3 i cortei, oltre a quello della CGIL sfilano, ma da diversi punti della città, studenti medi, universitari, collettivi, precari e COBAS, che dovrebbero poi arrivare insieme a Piazza Santi Apostoli. Sfilano anche liceali che da piramide vorrebbero raggiungere il Ministero dell'Istruzione, ma si temono tentativi di deviare dal percorso ufficiale. Gli studenti infatti sono intenzionati a raggiungere Montecitorio per convergere verso le sedi istituzionali, una intenzione che preoccupa le forze dell'ordine. L'intero centro qui è presidiato da decine di blindati piazzati nei punti strategici, numerose le strade chiuse, con inevitabili ripercussioni sul traffico che si aggiungono allo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico della CGIL, nonché agli allagamenti. Per ora situazione qui a Roma sotto controllo, qualche lancio di petardi e fumogeni colorati, ma momenti di tensione ci sono stati nelle prime ore della mattina durante un corteo non autorizzato del blocco studentesco settore giovanile di Casa Pound. Gli studenti hanno cercato di sfondare verso Via del Corso, ma sono stati bloccati dagli agenti e ci sono stati 2 poliziotti contusi e un carabiniere ferito alla mano. E da Roma per il momento è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. L'austerità sta strangolando il lavoro, impoverendo il paese, non determinando un futuro. Sono state le parole della leader della CGIL, Susanna Camusso, in piazza Terni, secondo cui l'anno del governo Monti è stato un anno di disastri. Studenti e lavoratori in piazza anche a Napoli. Il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini, era in testa al corteo della FIOM a Pomigliano d'Arco. Sono qui per difendere le ragioni di tutti i lavoratori della Fiat. Noi chiediamo il rientro di tutti i lavoratori, il contratto di solidarietà, e siamo qui per difendere tutti i lavoratori italiani, perché vogliamo andare in Europa coi diritti e non con il modello americano che in America non usano più. Ecco, fra poco torneremo sulla pagina politica e sulle proteste, ma restiamo per un istante a Roma, perché è una giornata davvero difficile quella di oggi per i romani. Oltre ai problemi creati dai cortei studenteschi e quello della CGIL, sono uscite dagli argini le acque del Tevere. Per sentire allora com'è la situazione in questo momento, ci colleghiamo con Roma e con Andrea Viale. Andrea, dove ti trovi? Sì, è così, Piera, io sono a Ponte Milvio, a Roma. Oggi in realtà splende il sole, non piove più da giorni, fa anche caldo, e questo stride con l'allerta e le forti preoccupazioni di cui parlavi, che sta destando in queste ore la piana del Tevere, ingrossato dalle piogge cadute negli ultimi giorni in Umbria e in Toscana. Lo ricordiamo, da questa mattina in città si segnalano molti allagamenti, soprattutto nella zona nord. La zona interessata è in particolare quella di Via dei Prati Fiscali, ma anche quella della Flaminia e della Salaria. Molte strade sono state chiuse, molti sottopassaggi sono stati allagati. Non mancano naturalmente i disagi per il traffico qui a Ponte Milvio. Centinaia di curiosi, come spesso succede in queste circostanze, stanno assistendo allo spettacolo, possiamo dire, offerto dal Tevere, che qui ha superato il livello record di 14 metri, ha raggiunto per l'esattezza i 14 metri e 10 centimetri. L'acqua lambisce le arcate del ponte e in una di queste arcate, tra l'altro, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per rimuovere i rottami di uno dei tre barconi. Due erano quelli del circolo canottieri Aniene, che, rotti gli ormeggi nella notte, sono stati trascinati via e distrutti dalla furia delle acque. A destare allarme, come dicevi, è anche il fiume Aniene, che ha già esondato in diversi punti sempre nella zona nord di Roma. Per quanto riguarda il Tevere, il picco più alto dell'onda di piena, che era atteso per mezzogiorno, dovrebbe invece arrivare verso le 18 di oggi pomeriggio, almeno così ci hanno detto poco fa i responsabili dei vigili del fuoco. E per fare il punto della situazione, tra poco qui a Ponte Milvio arriverà anche il sindaco Alemanno. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Il maltempo concede invece una tregua alle regioni del nord, duramente colpite dalle piogge e dai nubifragi dei giorni scorsi. Pensate che in 48 ore su Toscana, Umbria e Lazio, naturalmente in questo caso stiamo parlando del centro Italia, sono caduti fino a 400 mm di pioggia, la stessa quantità che di solito cade in 6 mesi. Nel Grossetano, intanto, dopo l'ondata di maltempo che ha fatto registrare ieri altre 3 vittime, si contano i danni. Secondo il presidente della provincia di Grosseto, Leonardo Marras, saranno decine di milioni. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Noi entro stasera invieremo alla regione almeno una valutazione di massima sul patrimonio pubblico, quello dei comuni e quello della provincia, del demanio idrico e del complesso dei servizi a rete, per valutare almeno questo. Sono stime di massima perché in molti casi la possibilità anche di verificare puntualmente l'effettività dei danni è impossibile data la presenza dell'acqua. Su che ordine di cifre siamo? È comunque un conto da decine di milioni. La cosa che partirà da oggi, con il contatto con le categorie economiche direttamente sul posto, è il danno a privati. Ci sono potenzialmente 1500 imprese agricole colpite che hanno le strutture devastate, e c'è una zona industriale, quella dove l'agroalimentare fa la parte del leone, hanno gli impianti, credo, compromessi irrimediabilmente. E veniamo al capitolo legge di stabilità, un testo, come sapete, in continua evoluzione. Allora, le ultime novità da Roma, da Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Legge di stabilità con parte fiscale della manovra riscritta dai relatori in commissione bilancio a Montecitorio. Tra le proposte, l'aumento degli sconti per i figli a carico, l'esclusione dell'IRAP per i mini imprenditori, l'aumento delle risorse per la produttività, cancellazione dell'intervento IRPEF e aumento dell'IVA. In attesa del voto comunque in commissione bilancio, l'emendamento vale in tutto 6,5 miliardi, di cui 1 miliardo per le famiglie. Sugli esodati arriva la salvaguardia di altre 10.000 persone. Tra le novità di questa mattina, una deroga al patto di stabilità interno per consentire ai comuni di spendere le risorse per fronteggiare il dissesto idrogeologico, mentre si allenta il blocco del turnover per il comparto sicurezza. Rifinanziato poi l'ente del microcredito per 1,8 milioni l'anno. Critici comunque i sindacati. Per Raffaele Bonanni convincono le decretazioni per le famiglie, ma la CISL chiede di vedere il conto. Per Susanna Camusso, CGL, qualche miglioramento c'è, ma manca la risposta alla fascia debole del paese. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. I sindacati del pubblico impiego respingono qualsiasi ipotesi di licenziamento nel settore e chiedono al Ministero di aprire al più presto un tavolo sul precariato. Il ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, ha parlato di oltre 4.000 eccedenze fra il personale non dirigenziale e di quasi 500 fra i dirigenti. Al microfono di Katia Caramelli, Gianni Baratta, segretario confederale della CISL, responsabile per il pubblico impiego. Intanto il governo ci ha presentato dei numeri parziali perché si riferiscono a 50 amministrazioni di quelle centralizzate, 4.000 eccedenze, che ovviamente non significano esuberi, cioè la differenza è sostanziale. Le eccedenze sono derivanti dalle piante organiche che loro hanno dentro, gli esuberi invece sarà il risultato finale, quando alla fine di un processo che vedrà mobilità interna, prepensionamenti ante fornero, magari part time, allora avremo il risultato finale. Avete detto comunque no a licenziamenti. Non solo abbiamo detto no ai licenziamenti, ma personalmente io sono convinto che alla fine di questa operazione non ci sarà bisogno di licenziamenti, perché nelle amministrazioni pubbliche dal 2007 ad oggi sono andati via più di 100.000 persone. Quindi pensate a delle compensazioni? Certamente, cosiddette compensazioni fra amministrazione e amministrazione. Dove c'è carenza di pianta organica si potrà, attraverso processi di riprofessionalizzazione, attraverso garanzie che dovremmo scrivere in un accordo che faremo nelle prossime settimane a Palazzo Vidoni, trasferire queste persone con ovviamente tutte le garanzie. Il segretario del PDL Angelino Alfano rilancia l'idea dell'Election Day. Per Alfano bisognerebbe o spostare le elezioni politiche a febbraio oppure spostare le regionali ad aprile. In Lazio, Lombardia e Molise, lo ricordiamo, si voterà il 10 e 11 febbraio, mentre le politiche dovrebbero essere fissate per il 7 e l'8 aprile. Un giochino, secondo Alfano, che costa 100 milioni di euro. Il punto di Stefano Folli. Finalmente sappiamo la data delle elezioni regionali in Lazio, Lombardia e Molise, tre simboli negativi purtroppo del rapporto fra il cittadino e la classe amministrativa. Sarebbe stato molto meglio votare insieme anche per il rinnovo del Parlamento e così risparmiare un po' di soldi del contribuente, ma si sarebbe dovuto attendere i primi di aprile, scadenza della legislatura, e questo avrebbe significato tenere in sella le giunte dimissionarie nelle tre regioni ancora per mesi, con tutte le conseguenze prevedibili. Certo, sulla carta si sarebbe potuto anticipare tutto il blocco elettorale e votare in febbraio anche per il Parlamento. Gli italiani non se ne sarebbero affatto lamentati, ma c'erano molti problemi al riguardo. I partiti, tra l'altro, non sono ancora riusciti a cambiare la legge elettorale. Sono impantanati in una discussione bizantina che forse porterà a un risultato o forse no. E il tempo passa, mentre la credibilità della politica non risale. C'è da scommettere che anche su questo gli elettori diranno la loro andando a votare nelle regioni. Questo era dunque il punto di Stefano Folli e veniamo invece alle nuove proteste e ai nuovi scontri nella notte in Val di Susa. In diretta con noi Cristina Carpinelli. Eh sì Piera, perché le trivelle per il treno ad alta velocità si sono rimesse al lavoro e i Notav sono tornati a protestare in Val di Susa. 300 persone hanno manifestato ieri sera, hanno bloccato l'autostrada A32, hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine. L'episodio più grave della protesta, un assalto all'auto della polizia stradale poco prima delle 20 in prossimità del distaccamento della stradale di Susa. Sempre ieri è arrivata una lettera minatoria indirizzata a un sindaco, Renzo Pinar, primo cittadino di Chiomonte, più volte criticato per le sue posizioni considerate favorevoli all'alta velocità. Una lettera identica a quella ricevuta lunedì dal sindaco di Susa, Gemma Amprini. Questo è il tema da cui partiamo in Italia in controluce, tra poco, quindi subito dopo il giornale radio, per arrivare poi a porci delle domande e trovare delle risposte. La domanda è: a che punto è il progetto TAV a livello europeo, chi lo sta sostenendo e soprattutto quanto costa ai singoli stati? Questo è il tema della puntata di oggi. E dunque Italia in controluce in diretta alle 13.30 farà il punto sui nuovi scontri avvenuti in Val di Susa nella notte. L'ex prefetto Carlo Ferrigno è stato arrestato nella notte a Torino, deve espiare una pena residua 2 anni e 8 mesi per prostituzione minorile, millantato credito, rivelazioni di segreto d'ufficio e accesso abusivo ai sistemi informatici. Ferrigno si trova ora in carcere. È morto il 12enne che era stato ferito domenica scorsa in una battuta di caccia in Sardegna. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Andrea era stato trasportato in elicottero all'ospedale di Nuoro, dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cervello. L'incidente era avvenuto nelle campagne di Irgoli, dove il 12enne aveva accompagnato il padre e il fratello per una battuta di caccia al cinghiale. Secondo quanto ricostruito nelle indagini dei carabinieri, il ragazzo si era appostato fra i cespugli e aspettava la preda quando è stato raggiunto da un colpo di fucile alla testa. A sparare un uomo di 64 anni, Franco Paletta, carabiniere in pensione, che deve aver scambiato i movimenti del giovane per quelli di un animale. L'uomo è ora indagato per omicidio colposo. A distanza di qualche giorno, dunque, Andrea non ce l'ha fatta. Ieri sera i medici hanno dichiarato la morte cerebrale e all'alba sono stati staccati i macchinari. Non è stato dato il consenso per l'espianto degli organi. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ripartiamo dalla Commissione Europea che dice sì alle quote rosa nei consigli di amministrazione. We still have an 85% male quota, Europe's largest companies. È un giorno storico per l'eguaglianza di genere in Europa. Vivian Reding, vicepresidente e commissario europeo alla giustizia, è emozionata mentre annuncia l'accordo raggiunto all'interno della Commissione che fissa l'obbligo di raggiungere quota 40% di donne nei consigli di amministrazione delle società private e pubbliche entro il 2020. La proposta di direttiva è stata controfirmata dai vicepresidenti Tajani, Industria, Almunia, Concorrenza, REN, Economia e Finanza e da Michel Barnier, Mercato Unico. Il testo, rivisto e approvato, impone che a parità di qualifiche dei candidati sia data priorità al sesso sottorappresentato, ovviamente quello femminile, nella scelta dei componenti non esecutivi dei consigli. La direttiva lascia poi che siano i singoli stati a definire le sanzioni per le società che non si adeguano, ma chiede che siano effettive, proporzionate e dissuasive. It is gender equality, but it is also a very economic. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Si sono chiusi oggi a Pechino i lavori del congresso del Partito Comunista Cinese. Non dovevano esserci sorprese e non ce ne sono state. Il 18° congresso del Partito Comunista Cinese, convocato in questi giorni a Pechino per sancire una transizione decennale di potere, si è concluso esattamente come previsto dal copione. L'ordine con cui i leader rossi sono saliti sul palco allestito nella grande sala del popolo ha confermato quali saranno le gerarchie della nuova classe dirigente che la prossima primavera prenderà in mano le redini della superpotenza asiatica. Xi Jinping, il nuovo comandante supremo della nomenclatura cinese, sostituirà Hu Jintao sulle poltrone di segretario del Partito Comunista, di Presidente della Repubblica e, con ogni probabilità, anche di quella della Commissione Militare. Li Keqiang sarà il suo numero due e prenderà il posto dell'attuale premier Wen Jiabao. Formalmente a nominare i due uomini di punta della quinta generazione di comunisti cinesi è stato il Comitato Centrale, appena rinnovato per oltre la metà dei suoi effettivi. Domani, nella sua prima riunione ufficiale, il nuovo conclave rosso nominerà il nuovo Politburo. Quest'ultimo, a sua volta, subito dopo eleggerà il Comitato Permanente del Politburo, cioè quella ristrettissima stanza dei bottoni che governerà la Cina per i prossimi 10 anni. Luca Vinciguerra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pechino. La Toyota richiama 2,7 milioni di veicoli per problemi al piantone dello sterzo e alla pompa idraulica in alcuni modelli ad alimentazione ibrida. Il colosso dell'auto ha precisato che non sono stati rilevati incidenti, per fortuna, a causa dei difetti. Il richiamo riguarda pure la seconda generazione Prius, quasi 670.000 vetture vendute negli Stati Uniti, quasi 500.000 in Europa. Nascono sempre meno italiani e le nostre mamme sono sempre più anziane. Le più prolifiche sono invece le rumene, seguite dalle marocchine. L'Italia continua inesorabilmente ad invecchiare. Nel 2011 i nuovi nati iscritti all'anagrafe sono stati circa 15.000 in meno rispetto al 2010. A rivelarlo è l'Istat, secondo cui si conferma la tendenza alla diminuzione delle nascite già avviata nel 2009. Il calo è causato per lo più dalla diminuzione di figli nati da coppie italiane, quasi 40.000 in meno rispetto al 2008. Ma calano anche i nati da almeno un genitore straniero, che avevano continuato ad aumentare fino al 2010, sostenendo la ripresa della natalità in Italia. Nel 2011 2011 nati da coppie miste sono calati di circa 2.000 unità. Aumentano soltanto i nati da genitori entrambi stranieri, anche se in misura più contenuta rispetto agli anni precedenti. Tra le madri straniere, i primi posti per numero di figli si confermano le rumene, al secondo le marocchine, al terzo le albanesi, al quarto le cinesi. Quasi il 7% dei nati nel 2011 ha una madre di almeno 40 anni, mentre continuano a diminuire i nati da madri di età inferiore ai 25. E le italiane posticipano sempre di più la maternità. In Italia, infine, aumentano i nati da genitori non coniugati. Al centro-nord, in particolare, rappresentano il 30%. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stasera di nuovo azzurri in campo. Cosa aspettarci dunque dalla nostra nazionale? Ce lo racconta in diretta Giovanni Capuano. Sì, intanto è un'Italia-Francia che conta soprattutto per Cesare Prandelli, che viene vissuta invece con fastidio, anche con un pizzico di paura dai club, perché arriva nel mezzo del primo periodo decisivo per il campionato e alla vigilia di una settimana da bollino rosso per i destini delle nostre squadre in Europa. In ogni caso l'amichevole di Parma di questa sera ha anche più di un significato dal punto di vista tecnico. Prandelli ha scelto di fare esperimenti ma senza esagerare, almeno in partenza, e dunque l'Italia che vedremo sarà una proiezione di quella che sarà in futuro, con spazio ad alcuni giovani interessanti ma già affermati come Balotelli del Sharawi e soprattutto Marco Verratti, che verrà schierato dal primo minuto al posto di Pirlo. Riposa anche Buffon, gioca l'ex palermitano, oggi portiere del Paris Saint-Germain, Sirigu. La Francia di Deschamps arriva con la formazione titolare ma anche qualche problema soprattutto in difesa. Insomma, in ogni caso saranno 90 minuti da seguire. Staremo a vedere, grazie a Giovanni Capuano. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Matteo Comes. Ora il GR Spettacoli, poi Italia in Controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola, dal Festival Internazionale del Film di Roma. Oggi è la giornata di Sylvester Stallone, che presenterà Bullet to the Head di Walter Hill, e di Paolo Franchi in concorso con E la chiamano Estate. E oggi inizia anche il mercato internazionale del film. The Business Street si svolge come sempre a Via Veneto e si articola su proiezioni in sala, una video library digitale, incontri tra produttori, compratori e venditori. Presentato ieri il nuovo film di Aureliano Amadei, con Il leone di Orvieto ha raccontato la storia di Giancarlo Parretti, che negli anni 80 scalò avventurosamente la Metro Goldwyn Mayer, ma finì con un crack. Aureliano Amadei. Penso che, vedendo questo documentario e pensando che Giancarlo Parretti è stato capo della Metro Goldwyn Mayer, viene da pensare a dove stanno Lombardo, dove stanno De Laurentiis, dove stanno i Cristaldi, no, viene un po' da pensare con la lacrimuccia agli occhi, no? Che è successo, che com'è possibile, ecco, secondo me una spiegazione un po' c'è nel documentario, insomma, è com'è possibile che oggi stiamo dove siamo? Beh, insomma, un po' la troviamo nel documentario la spiegazione, quindi il primo interesse viene da questo. Intanto per i ragazzi due delizie d'animazione già in profumo di Natale, da DreamWorks Le cinque leggende e il nuovo Disney Ralph spacca tutto, nato dal mondo dei videogiochi. Well, I remember when I played video games when I was very young. They were very, very simple. Quando giocavo io ai videogiochi erano molto più semplici, racconta il regista di Ralph Spaccatutto, Rich Moore. Adesso tutto è velocissimo e complesso, molto realistico, ma i ragazzi sono sempre capaci di usare la fantasia, ora come allora. Infine parliamo di televisione. Fox ha presentato Cambio Cane. Dal 30 novembre su Fox Life si ripromette di migliorare le relazioni tra cani e proprietari. Angelo Vaira è il dog coach. Due famiglie alle prese con le loro abitudini, i loro schemi, dovranno mettersi in gioco perché devono accogliere nel migliore dei modi un cane che è diverso dal proprio. E quindi dovranno capirlo, capire che il cane ha dei bisogni prima che dei comportamenti errati, no? E rispettando quei bisogni i comportamenti errati si trasformano invece nei comportamenti corretti. Al contempo il cane vive una situazione nel quale ci si prende cura di lui praticamente come se fosse un pascià, ma un pascià non trattato come un bambino, perché di solito c'è questo misunderstanding in cui il cane sembra preso e più lo tratti come un bambino è meglio. In realtà il cane ha i suoi bisogni, non ha bisogno di essere trattato come un bambino. Trattare bene un cane significa trattarlo da cane, ma non trattarlo male. Trattarlo con i suoi bisogni, per esempio deve uscire, deve giocare, deve fiutare, deve poter esplorare quando esce in passeggiata anziché fare quei 10 minuti di passeggiata veloce, no? Insomma, scoprono un sacco di cose e si accorgono di quanto valore attribuiscono al loro cane, perché quando rientrano sono tutti più felici e più competenti, quindi il cane andrà a stare meglio. E per questa edizione del GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.